Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo delle trattative europee e quindi Recovery Fund, lo stallo che si è creato, ma anche, da quello che si percepisce, una certa irritazione della Commissione europea per un recovery plan italiano di cui ancora non si conoscono i dettagli, mentre Francia e Spagna lo hanno già presentato nel giorno in cui la commissaria europea von der Leyen, la presidente, scusatemi, della Commissione europea Ursula von der Leyen, ricordo come arriveranno altri 6 miliardi e mezzo all'Italia dal piano SURE per la cassa integrazione, dopo che l'Italia ha già ricevuto una prima tranche da 10 miliardi e ne riceverà un'altra da 6 miliardi e mezzo. In tutto l'Italia ha diritto a una quota, la quota più grande sulla cassa integrazione, 27 miliardi e mezzo, e sappiamo che l'importo complessivo del piano SURE è un importo imponente, 233 miliardi è la domanda che era arrivata quando furono collocate le obbligazioni per finanziarlo. Ma detto questo, con un risparmio che in 15 anni, se avessimo dovuto finanziarci sul mercato, avremmo dovuto pagare nei prossimi 15 anni 5 miliardi e mezzo in più. Adesso la cifra è un po' più bassa perché i tassi di interesse sono abbassati. Comunque c'è un risparmio considerevole in tassi di interesse. Questo nel giorno in cui però, mentre si segnala e si conferma un trimestre importante, e mi riferisco al terzo trimestre, più 30% l'export italiano rispetto al precedente, e anche bene tutto il mese di settembre, però tra l'altro da questo punto di vista questo dato segue quello con l'export extra UE, però ormai è storia, nel senso che sappiamo da tantissimi indicatori, dal PIL più 16%, l'export più 30% rispetto al trimestre precedente, che il secondo trimestre stava andando bene, e uso il passato perché sappiamo che con ottobre invece la situazione si è invertita per via delle restrizioni in mezzo mondo, in tutta Europa e anche in Italia. In questo caso parliamo del commercio con l'estero, però, e si è invertita anche la tendenza complessiva, tant'è che il dato di oggi diffuso dalla Confcommercio e dell'altro tema che affronteremo segnala un crollo dei consumi a ottobre, meno 8% rispetto a ottobre 2019. Il calo è molto pesante. Il rallentamento è interessato in misura più diretta a tutta la filiera del turismo. I servizi ricreativi hanno fatto meno 73%, alberghi meno 60%, bar e ristoranti meno 38%. Per il mese di novembre si stima, e questo è il dato relativo a ottobre, si stima una riduzione del PIL del 7,7% su ottobre, del 12% rispetto all'anno prima. Ora, qualcosa potrebbe migliorare nel mese di dicembre sui consumi, vedremo anche quella che sarà la possibilità. Le zone gialle sono sempre meno in questo paese, cito le zone gialle perché lì si può anche ancora andare al ristorante, al bar e fare acquisti, sempre con il limite delle 18 per ristoranti e bar. Le zone arancioni hanno qualche vantaggio in più, non su bar e ristoranti ma sugli altri esercizi commerciali, vedremo. Il problema è che se frena molto il PIL, se frenerà molto il PIL nel quarto trimestre, è chiaro che si entrerà, come si dice in gergo, in frenata a inizio del 2021. Le buone notizie invece arrivano dal fronte dei vaccini, ce ne occuperemo in apertura con chi nella vita gestisce proprio lo stoccaggio anche di medicinali, di farmaci. Arrivano perché ci sono varie notizie. Intanto da Bruxelles oggi abbiamo scoperto che c'è un preaccordo con la società Moderna per 160 milioni di dosi, ma che la Commissione europea ha approvato anche un quinto contratto per acquisto con la CureVac, per l'acquisto iniziale di 225 milioni di dosi, con un'ulteriore opzione per 180 milioni di dosi. In questo modo l'Unione Europea sostanzialmente ha circa un miliardo di dosi di accordi, per circa un miliardo di dosi con i vari, con le varie agenzie, con le varie società che stanno sviluppando i vaccini, che sono nella fase 3. E l'ipotesi su cui continua a muoversi un po' la borsa anche oggi, più 0,80% Milano, più 0,20% Parigi, Londra, in varie, Londra meno 1, Dow Jones meno 0,70, è che tutto questo arrivi prima delle attese, quindi che già da gennaio e febbraio possa essere una distribuzione dei vaccini per le categorie più a rischio, e quindi operatori sanitari, forze dell'ordine e anche le persone più a rischio quanto a età anagrafica. Parleremo quindi di Europa e di andamento dei consumi italiani, di chi deve gestire il trasporto di queste merci, scusatemi, dei vaccini e quindi anche della componente farmaceutica, e poi un tema che è a cavallo tra l'Europa e l'Italia. C'è molta preoccupazione nel mondo bancario per quello che potrebbe avvenire in Europa, perché a livello di regole europee. Perché le banche hanno in questo momento imbarcato molti prestiti, molti crediti a imprese. Ora, il rischio qual è? È che tutti i provvedimenti fatti in questi mesi, che sono fatti per dare liquidità alle imprese, per dare prestiti alle imprese, possono essere vanificati se l'Unione Europea non procederà alla sospensione del cosiddetto calendar provisioning, cioè la recente normativa dell'Unione Europea, che dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio, che impone in automatico alle banche l'azzeramento in 3 anni dei crediti a rischio non garantiti e comunque in 7-9 anni di quelli con garanzie reali. Ora, questa regola doveva servire per far pulizia nei bilanci bancari ed era prociclica. Cosa vuol dire? Era stata introdotta quando l'economia andava tutto sommato bene. Ora mi chiedo che cosa debba capitare ancora perché in Europa e a Bruxelles si rendono conto che applicata adesso sulle banche italiane, ma anche sulle banche francesi e le banche di altri paesi, avrebbe un effetto devastante. Di questo parleremo, perché insomma, bisogna arrivare almeno a una sospensione. C'è chi ha proposto di arrivare a una sospensione fino a giugno del 2021. Stranamente i paesi nordici non sono d'accordo. E qualcuno chiede che prima l'Italia proceda a una riforma della giustizia civile. Sembra un tema tecnico, in realtà è abbastanza chiaro che se questo vincolo dovesse scattare dal 1 gennaio sarebbe un vincolo molto pesante per le banche, perché riassorbire in 3 anni i prestiti non garantiti, in 7-8 anni quelli garantiti, con la mole di prestiti che sono stati fatti anche quelli garantiti, diventa quasi un incubo per il mondo bancario. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Sì, parleremo anche del commissario in Calabria, datemi un secondo però, perché vabbè. Allora andiamo rapidamente con le notizie di carattere internazionale. EasyJet stima perdite record quest'anno da 1 miliardo e 400 milioni di euro, le ha già registrate nei primi 9 mesi, 1 miliardo e 270 milioni di sterline, il peggior andamento da quando esiste il vettore, da 25 anni. Per quello che riguarda invece della von der Leyen sul piano Sure, ho già detto, ne parleremo più avanti. Venendo all'Italia, l'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere tramite il direttore Ernesto Maria Ruffini che i contributi a fondo perduto, tra quelli dati col decreto ristori che era a valere sui fatturati di aprile ma è arrivato tra maggio e giugno, e quelli già che stanno arrivando col primo decreto ristori, sono in tutto 7 miliardi e 600 milioni. Per la precisione, 6 miliardi e 600 milioni sono arrivati per la parte, per il decreto rilancio, quello che era relativo, ripeto, ai fatturati di aprile, mentre 1 miliardo è già stato erogato per il DL ristori, quello che però riguardava solo alcune categorie, poi c'è il Ristori Bis che ha introdotto altre categorie, perché nel frattempo sono arrivate altre chiusure, come abbiamo spiegato molte volte. Devo dire che molti molti ci segnalano onestamente una, l'arrivo dei fondi già in conto corrente. Ora ho i dati di oggi, che non sono belli, così la diciamo subito. Allora, il rapporto tra test positivi e test totali è intorno al 15%, ancora elevato ma un po' in calo. La notizia più importante, i test positivi si sono stabilizzati a 32.000 con 208 tamponi. Dov'è che non sono belli? E non sono belli sui numeri clinici, perché ci sono 120 ricoveri in terapia intensiva oggi, quindi sono tornati a salire, e soprattutto c'è stato, attenzione, un errore statistico, l'ho visto dal Veneto, c'erano casi non segnalati, non registrati negli ultimi giorni, e anche alcuni casi, perché la nota dice 731 decessi, che vista così è un dato che ci riporta paro paro ai livelli, diciamo, più alti di fine marzo. Però nella nota diffusa dall'Istituto Superiore di Sanità dice che l'aumento a 731 decessi non è in controtendenza, ma si deve al fatto che i decessi si riferiscono ai casi cumulati negli ultimi due mesi. Adesso cercheremo di capire come si scorpora questo dato, perché visto così... La manovra. Allora, il ministro Gualtieri oggi ha detto: sono fiducioso, il Parlamento la migliorerà, e poi ha confermato la decontribuzione per chi assume giovani e donne a tempo indeterminato, la decontribuzione totale. Noi, il nostro atteggiamento è di dialogo, e pensiamo che il Parlamento, il passaggio parlamentare, possa migliorare la manovra, e naturalmente tutte le proposte di buonsenso saranno valutate con grande attenzione. Vediamo che ci sono atteggiamenti diversi. C'è un partito, Forza Italia, che sembra esprimere un maggior senso di responsabilità, si rende conto che in un momento così difficile, così impegnativo per gli italiani, gli italiani si aspettano che le forze politiche, anche nella distinzione dei ruoli, però collaborino a cercare di risolvere i problemi. Quindi è un atteggiamento che merita apprezzamento, e noi naturalmente dialogheremo con tutte le forze in Parlamento che vogliano aiutarci a migliorare la manovra invece che fare propaganda, perché poi la propaganda può essere utile quando ci sono le elezioni, ammesso che lo sia, fare politica sulla base della propaganda, ma adesso gli italiani si aspettano risposte concrete. Sono fiducioso che la manovra passerà, e come sempre la Camera e il Senato miglioreranno il testo col loro contributo. Noi abbiamo in questi mesi difeso l'occupazione anche col divieto di licenziamento e con la cassa integrazione per tutti, e i dati ci dicono che siamo riusciti, e tutti gli osservatori riconoscono che senza queste misure ne avremmo presto perso milioni di posti di lavoro. Invece la riduzione dell'occupazione c'è stata, naturalmente, riguarda soprattutto i contratti a termine, ma abbiamo retto sul grosso. Ma adesso chiaramente noi dobbiamo uscire da questa fase con un aumento dell'occupazione, e noi abbiamo, quindi c'è sia un tema di recuperare l'occupazione che si è persa in questi mesi, sia il tema di recuperare un divario che l'Italia ha verso gli altri paesi, soprattutto verso l'occupazione giovanile e femminile. Allora, qualcuno mi chiede dei ricoveri in terapia intensiva, più 120, però ripeto, attenzione, sul numero dei morti, stiamo aspettando la spiegazione su cosa voglia dire casi accumulati, lo dico a chi mi sta scrivendo. Allora, invece, altro tema, e adesso io vorrei capire, con massimo rispetto di tutti, oggi, questa mattina, era ospite a Radio 24 da Simone Spezia Anna Maria Furlan, che ha detto: la manovra non parla di crescita, di progetto paese, dovremmo discutere con il governo sul recovery fund, di come utilizziamo tante risorse europee per la crescita e il lavoro. E fin qua niente da aggiungere. E la Furlana ha anche rimarcato che le risorse per le politiche attive del lavoro sono del tutto insufficienti. Poi però ha detto servono altri 600 milioni di euro per i contratti della pubblica amministrazione, i 400 milioni aggiuntivi stanziati non bastano, perché il pubblico impiego è stato per 8 anni senza rinnovare il contratto, l'ultimo è già scaduto da 2 anni. Sentiamo questo passaggio. Noi abbiamo calcolato che come minimo ci vorrebbe qualcosa più di 1 miliardo per poter rinnovare il contratto. Pubblico impiego è stato 8 anni senza rinnovare il contratto, tutta la pubblica amministrazione. Dopodiché siamo riusciti a rinnovare l'ultimo contratto che è già scaduto da 2 anni. E ovviamente attraverso la contrattazione che si guida, che si gestisce, il cambiamento. Non possiamo definire tanti lavoratori, tante lavoratrici, penso in modo particolare a quelli della sanità, i nostri eroi e poi non stanziare le risorse per rinnovargli un contratto ormai trascaduto. Il governo è anche datore di lavoro in quanto Stato verso 3 milioni di lavoratori e l'indifferenza verso il contratto non è ammissibile, non lo permettiamo ai privati, figuriamoci allo Stato. Se si trovano gli altri 600 milioni ci sono le condizioni per sedersi a un tavolo e aprire la trattativa. Allora, dopodiché oggi FP, CGL, CISL, FP, UIL, FPL, UIL, PA e quindi le confederazioni sindacali che rappresentano il pubblico impiego, preso atto dell'esito del confronto con il governo, in mancanza delle necessarie risorse per lavorare in sicurezza, per la stabilizzazione del precariato e per il finanziamento dei rinnovi, hanno proclamato lo sciopero nazionale il 9 dicembre prossimo. Allora, figuratevi, cioè lo sciopero è un diritto, ci mancherebbe, però io chiedo ai sindacati del pubblico impiego, ho capito che la richiesta di più soldi, questo fa parte delle trattative, ma vi sembra il caso di proclamare uno sciopero il 9 dicembre? Non è lo sciopero del personale sanitario, voglio dire, se il tema fosse solo il personale sanitario, a parte che ho visto i soldi stanziati, ma comunque qui tutto il pubblico impiego, anche gente, lo dico con massimo rispetto, che sta da mesi a casa in smart working perché è obbligata, non perché ha scelto di andare in smart working, ma soprattutto un settore che non ha avuto, lasciamo stare per un secondo i medici e gli infermieri, veri eroi, ma dico, non ha avuto un licenziamento, ho capito che non ha avuto un rinnovo, ma qui stiamo parlando di un paese in cui ci sono interi settori chiusi. Allora, gli stessi sindacati che in questi anni si sono sempre opposti a qualunque forma di meritocrazia nel pubblico impiego, che significa premiare i migliori ma anche licenziare chi non lavora. Licenziare non è un tabù nel pubblico impiego, il licenziamento. Chiedo, ma in che modo vi viene in mente di proclamare uno sciopero per il 9 di dicembre con un paese in cui molte persone non possono neanche scioperare perché tanto non stanno aprendo la clea dei negozi? Che lo sciopero vuol dire non lavorare, ma c'è chi sta scioperando da settimane, nel senso che non sta lavorando da settimane. E poi che sciopero è quando tu hai la maggior parte dei tuoi, diciamo, rappresentati a casa? Ripeto, non perché l'abbiano chiesto a loro, ma per disposizioni. E non voglio neanche entrare sull'efficienza o la non efficienza della pubblica amministrazione mentre lavora da casa. Aggiungo, giusto per non farmele girare a sufficienza, che oggi consiglierei a tutti i sindacati, quindi Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi, Nicola Turco, di leggersi con attenzione il pezzo di Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, perché lui scrive che nel titolo 14 del disegno di legge, nella manovra, non ci sono ulteriori risorse per il rinnovo contrattuale, ma anche un fondo nuovo anche nel meccanismo che mette a disposizione 3 miliardi 630 milioni dall'anno prossimo al 2023 con una stabilizzazione da 315 milioni annui da quell'anno per le assunzioni che i ministeri e la pubblica amministrazione centrale potranno portare avanti in deroga alle regole generali che limitano la spesa e il turnover. Un primo pacchetto di ingressi viene già dettagliato nel testo della manovra, prevede ad esempio 3.300 assunzioni nella giustizia, 140 al Ministero delle Politiche Agricole, 250 al Viminale, 142 al Ministero della Salute, 550 alle ragionerie territoriali. Le pubbliche amministrazioni del Sud potranno poi assumere nei prossimi 3 anni, ammesso che riescano, che siano in grado di farlo, 2.800 persone, 126 milioni di spesa annua. ci sono i 400 milioni aggiuntivi promessi che portano a 3 miliardi e 800 milioni lo stanziamento complessivo per il rinnovo contrattuale relativo al 2019-2021. Il costo totale per quello che riguarda invece le regioni, enti locali, università e sanità saranno i bilanci autonomi territoriali a dover trovare le risorse necessarie a garantire ai dipendenti gli stessi aumenti previsti per chi lavora, diciamo, per lo Stato e non per gli enti locali. Il costo totale 6 miliardi e 7 per il triennio. Ripeto, il problema non è dire 400 milioni non bastano, servono altri 600 milioni, iniziare una trattativa perché ci sono stime diverse. Il problema è dichiarare uno sciopero il 9 dicembre in un settore che non me ne abbiano i lavoratori del pubblico impiego, che sicuramente stanno aspettando il rinnovo del contratto, ma almeno il lavoro ce l'hanno. E non è un dettaglio in questo periodo, con quello che vediamo in giro, non è un dettaglio. Io mi chiedo se i sindacati del pubblico impiego devono continuare a dare sempre il meglio di sé. Quando leggerò di uno sciopero, di una manifestazione per introdurre criteri meritocratici in base agli obiettivi raggiunti che prevedono l'aumento di stipendio per un collega e il licenziamento dell'altro collega o la riduzione anche nella scuola, avrete tutto il mio appoggio, ma lo sciopero il 9 di dicembre non si può sentire. Adesso andiamo sul meteo e la pubblicità, poi raccontiamo sta vicenda della Calabria. Come volete che la prenda questa cosa della Calabria? La racconteremo, sembra una barzelletta. 349-238-6666, c'erano tre commissari, bim bum bam, dai, meteo. Focus Economia. Minuti. Allora, molti mi scrivono: gli statali sono pronti per il ponte dell'8 dicembre. E guardate, non credo, perché dovremmo essere ancora bloccati. Non mi sembra che le regioni diventino tutte gialle improvvisamente. Certo che pure sti geni dei segretari di categoria, Serena Sorrentino, Maurizio Petriccioli, Michelangelo Librandi, Nicola Turco, che vanno a proclamare lo sciopero del pubblico impiego in smart working il 9 dopo l'8, no dai, ma per favore, ma andate a trattare col governo, per carità. Ma cosa vuol dire uno sciopero quando stai già garantendo un'operatività che è sotto livello normale, che già non era un grandissimo livello, per favore. Ma andiamo avanti, perché oggi ne ho. Dunque, mi scrive un'ascoltatrice, non so se è coinvolta nel tema della meritocrazia nel pubblico impiego, dice: se parliamo di meritocrazia dovreste cominciare a licenziare i dipendenti di Radio 24, Latella, Cruciani, Milan e via dire cosa, signora? Nel senso che noi siamo privati e il nome che lei ha fatto, ci metto anche il mio, noi stiamo in piedi se facciamo ascolto, se non facciamo ascolto poi chi va a vedere i programmi dice: il programma non fa ascolto, non raccoglie pubblicità e va a casa. Vuole che applichiamo questa categoria anche a lei? Prendiamo, non so, il tasso di efficienza in quello che lei fa e vediamo se si può mettere un'asticella e dire: bene, se sei sotto questo vai a casa. Vogliamo applicare questa categoria del mercato al mondo del pubblico impiego? No, perché sarebbe anche sbagliato. Però ogni tanto qualche criterio di valutazione vogliamo introdurlo o no? Va tutto bene con quello che raccontiamo nella classifica? Insegnanti che si fanno un mazzo tanto, insegnanti che non sono in grado di usare la DAD, insegnanti che ci mettono l'anima e vengono mortificati dai sindacati della scuola, anche che mai hanno voluto la meritocrazia e il merito e i premi al merito, soldi per chi lavora bene, punizioni e detrazione dello stipendio per chi lavora male. Mamma mia, eh? Iniziano a tremare i polsi così. Immaginate, no? Non solo le assenze, anche il merito. Quanti studenti riesci? Troviamo dei coefficienti, vale anche per il mondo delle cancellerie dei tribunali e quant'altro. Però, un attimo solo. La burocrazia, visto che ne sto parlando, e adesso arrivo anche alla Calabria. Dunque, i tendoni li hanno montati 3 settimane fa, dopo che da Roma era arrivato un ordine ad alta priorità. Praticamente stiamo parlando di un percorso disegnato dalla spianata di cemento da un New Jersey di plastica che forma una L. All'interno di questa galleria dove possono entrare 6 automobili per volta, stiamo parlando praticamente all'aeroporto di Linate di Milano, tampone a risposta rapida sia per il guidatore sia per il passeggero, cioè hanno messo su desk di legno e le panchine riservate al personale sanitario. Ora, hanno messo su rapidamente un checkpoint per il tampone, e sapete che è successo? Che è ancora lì vuoto. Allora, il colonnello dell'aeronautica militare Alberto Di Carlo dice: noi siamo pronti da giorni, aspettiamo che arrivi l'ok e possiamo partire. È la postazione drive-thru, appunto, dell'aeronautica militare dietro l'aeroporto di Linate, disponibile da 20 giorni e anche di più, non è ancora aperta. Ufficialmente nessuno aveva annunciato la data esatta di avvio. I militari passano le giornate a fare ordinaria manutenzione, cioè stanno lì a girarsi i pollici, non è colpa loro. Il via libera chi deve darlo? L'ATS di Milano? La regione Lombardia? Uso accenti così perché qua ormai il paese è unico, l'abbiamo unito. La Lombardia, la Calabria, voglio dire, è scomparsa ogni soluzione di continuità nella gestione del Covid. Allora, l'ATS di Milano, perché non lo dà ancora? È perché l'organizzazione del Rivè in capo all'ATS, il centro logistico sportivo, è stato convertito già da una settimana. Insomma, oggi il nostro Alessio Maurizi ha raggiunto il direttore generale dell'ATS di Milano, Walter Bergamaschi. Ascoltiamo. Non è un problema di autorizzazione, è un problema gestionale. Grazie alla collaborazione dell'esercito noi stiamo allestendo 3 drive-thru. Uno al Parco di Trenno, il più grande d'Italia, che è partito venerdì. Il secondo a Linate, che partirà giovedì con le prime prove, venerdì con un'attività ridotta e da lunedì diciamo a regime, e un terzo alla stazione della metropolitana di Romolo, che partirà anche quello subito dopo che Linate va a regime. Alla fine di questa settimana saranno attivi 2, alla fine della settimana prossima dovrebbero essere attivi tutti e 3. Il problema non è legato alla burocrazia, ma legato al fatto che allestire questi punti è importante, ma poi dobbiamo trovare i laboratori che processino i tamponi per chi risulta positivo, dobbiamo gestire tutto il sistema informativo, arruolare le persone e formarle per fare l'accettazione amministrativa, la consegna dei referti, eccetera, eccetera. Questo per impianti così importanti che devono viaggiare poi con grandi ritmi, ovviamente richiede un po' di tempo. Boh, io non è che posso mettere la supercazzola come se fosse Antani ogni giorno, io non ho capito. Fate risentire il primo pezzo di Bergamaschi, è un problema gestionale? No, perché adesso sto imparando nuove cose, io veramente oggi esco pazzo, non ce la posso fare, sembra di essere già venerdì. Mi fate risentire l'inizio di Bergamaschi? Non è un problema di autorizzazione, è un problema gestionale. Fermi. Adesso io invito tutti voi a spiegarmi cosa. Non è un problema di autorizzazione, è un problema gestionale, cioè tuo. No, non è tuo. Chi lo gestisce? Beh. Poi una volta si diceva che l'Italia era un paese lungo, troppo lungo. In realtà è un paese cortissimo, perché se noi prendiamo il fatto che da 20 giorni c'è un drive-thru fermo dietro Linate dell'aeronautica militare con i militari fermi, montato in tutta fretta, ma il problema non è di autorizzazione, è gestionale. Il problema è gestionale. Vabbè, guardi, Bergamaschi, che il problema in Lombardia e nelle ATS lombardi sia gestionale, forse ho capito. Siamo d'accordo tutti, però dicevo, il paese non è vero che è così lungo. Oh, allora mi è abbassato un attimo, perché adesso io per leggere sta cosa non ce la faccio con una base così bella. A me l'unica base che viene in mente, così, anche per mangiare di nuovo proiettili, è febbre da cavallo. Allora, c'è una regione in Italia che aveva pochissimi posti di terapia intensiva, ce n'è ancora pochissimi posti, è la Calabria, 106 posti letto quando è scoppiato il Covid. Il governo stanzia 65 milioni di euro per arrivare a 280 posti letto. Dopo la prima fase dell'epidemia si aggiungono 40 posti letto e negli ultimi giorni si è arrivati a 161 posti letto, di cui 57 dedicati ai pazienti malati di Covid. I soldi ovviamente non sono stati spesi, non tutti quelli che erano stati destinati, e abbiamo scoperto in un'intervista, che non so neanche come definire, surreale, che l'ex commissario, a questo punto, Saverio Cotticelli, commissario per la sanità in Calabria, nominato nel gennaio 2019, durante un'intervista al programma di Rai 3, titolo quinto, scopre di essere lui responsabile della sanità in Calabria. E abbiamo un altro caso, commissario a sua insaputa. E poi abbiamo anche il caso del drogato a sua insaputa, perché dice non ero lucido, ero stato confusionale, non mi sono riconosciuto, sono stato drogato da qualcuno. Come dicevano le mamme una volta, me l'hanno drogato. No, signora, guardi che suo figlio fa tutto da solo. Si preoccupi. Allora, dopodiché arriva il secondo commissario, Giuseppe Zuccatelli, ex presidente dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Poi spunta il video in cui nel 27 maggio sostiene che la mascherina non serve a un ca e per beccarti il virus dovresti baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca. Zuccatelli, di solito si bacia così, ma adesso non voglio andare nell'altro programma. Ok, altrimenti non te lo becchi. Zuccatelli, insomma, poi ha preso anche il virus, evidentemente si è baciato con qualcuno per 15 minuti, almeno 15 minuti, come asintomatico. E se ne va anche Zuccatelli. A questo punto la soluzione sembra trovata. No, non è Arcuri la soluzione, abbiamo già detto ieri che Arcuri, pur essendo calabrese, troppi ne ha di incarichi e anche sbaglia delle volte a giudicare dalla posizione della NAO oggi sulla differenza tra ventilatori e reali posti di rianimazione. Ma voglio andare avanti. Dopo Zuccatelli, finalmente la soluzione viene trovata. Eugenio Gaudio, Magnum, essendo rettore uscente, Magnum con Gaudio, rettore uscente dell'Università La Sapienza di Roma. Allora, a quel punto, Eugenio Gaudio, la soluzione l'abbiamo trovata. No, nel frattempo c'è il nome di Gino Strada che dice, ma insomma, a me mi hanno fatto una telefonata, poi tutti sono scomparsi. Gaudio, bene, Gaudio dice di sì ieri, oggi dice di no. Qual è il motivo? Ha detto, guarda, mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro, ma il cane mi ha mangiato i compiti, manca ancora un po', no? E mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro e quindi non posso andare da Catanzaro. Ora, a parte il fatto che avresti potuto, caro Gaudio, dircelo anche ieri, l'altro ieri, quando ti hanno telefonato. Adesso scopriamo anche che Gino Strada dice, scusatemi, a me nessuno mi ha ricontattato, l'agenzia di poco fa, se riesco ad aprirla, e dice, guardate che io al momento non ho, io commissario, nessuna proposta, è un commissario a sua insaputa. E nei prossimi giorni nuove puntate. Andiamo sul traffico. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Allora, il sogno di questa puntata è di avere, è più una letterina di Babbo Natale, c'è chi le scrive a Conte, noi ci limitiamo molto più onestamente a chiedere a Babbo Natale di portarci un commissario per la sanità calabrese sotto l'albero, non me ne sopra l'albero, al lato dell'albero, dietro l'albero, non importa. Ci date un commissario per la sanità calabrese? Avvisate Gino Strada che magari ha altre cose da fare, non è lì a girarsi i pollici. Che cosa volete fare con lui? Cioè, ma stiamo pazziando? Ci sono non so quante migliaia di medici e infermieri disoccupati che non vengono neanche arruolati dalle regioni, l'abbiamo raccontato in classifica. Un commissario. Un commissario. Eh? C'è solo un commissario. Mariano Bella, direttore del centro studi della Confcommercio, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Bella, può farlo lei, come se lei è calabrese, Bella? Sono calabrese, sono diretto calabrese. Abbiamo trovato il commissario, perché no, qua, se uno è calabrese, vedi Arcuri... esatto. Allora, vabbè, Bella, purtroppo mi tocca essere serio con lei, perché oggi non ce la posso fare. Qualcuno mi dice vai a curarti in Calabria, in Lombardia. No, guardate, non sto paragonando la sanità calabrese a quella lombarda, ho detto parlavamo di gestione, perché stavamo sentendo il presidente ATS e parlava di gestione. Allora il commissario Ventura, va bene, adesso un attimo fermi col commissario calabrese, a me interessa che arrivi per Natale, bella, poi la riprendo dopo il GR24. Però oggi il dato di ottobre segna un meno 8% nei consumi. Siccome abbiamo visto invece un dato dell'export, per esempio nel terzo trimestre, che andava molto bene, più 30%, abbiamo visto un PIL che andava molto bene anche nel terzo trimestre, meno 8% è sostanzialmente dovuto alle nuove restrizioni, se ho ben capito? Sì, diciamo che svanisce la ripresa. Il terzo trimestre è stato molto molto buono, molto migliore delle aspettative più rose, ma già alla fine di settembre, come la stessa produzione industriale di settembre testimonia, siamo un'altra volta in rallentamento. In sostanza, già prima delle restrizioni, la prima del 18 ottobre, il DPCM del 18 ottobre, nei primi 10 giorni avevamo che la mobilità, l'energia messa in rete, il gas erano decrescenti rispetto a settembre, la produzione industriale abbiamo detto, e sostanzialmente questo indicava che il rimbalzo statistico del terzo trimestre era molto appunto statistico, cioè l'economia si stava riadagiando sui tassi di crescita asfittici che l'hanno contraddistinta già da 20 anni, e poi sono arrivate le restrizioni. E quindi ecco quello che vorrei capire con lei, però noi stavamo notando, alcuni economisti la chiamano ripresa a K, io spero di no, cioè non a V, non a L, non a U, ma K vuol dire alcuni settori che vanno e riprendono bene, altri invece che continuano a scendere. Ora, al netto delle restrizioni, quindi è ovvio che nel momento in cui arrivano le zone gialle, arancioni e rosse e i ristoranti, i bar iniziano a chiudere alle 18 e iniziano anche i segni meno, però nel terzo trimestre c'era veramente una differenza così forte tra l'andamento del manifatturiero e il settore servizi? Sì. Oppure se si leva la parte turistica, perché mancavano i turisti internazionali, si stava ricomponendo, diciamo, quelle due gambette della K, mettiamo così? Beh, no, non si stavano ricomponendo. Cioè la dimensione della socialità, della mobilità, della convivialità è cresciuta anche nel terzo trimestre, ma è comunque è sempre stata molto molto lontana dalle performance dell'industria, che poi abbiamo visto anche in termini di esportazioni. No, la parte della ristorazione, la parte del turismo non si è mai ripresa, ma non si è nemmeno avvicinata. Ecco, il commercio alimentare invece sì, aveva raggiunto, come altre forme di commercio, aveva raggiunto i livelli del 2019. Lì il ghetto si era chiuso, ora purtroppo si è riaperto, ma in sostanza questa non è una sorpresa, perché tutti i previsori nazionali e internazionali per il quarto trimestre del 2021 ormai prevedono 2020. Del 2020 ormai prevedono una riduzione, Prometea intorno all'1,3%, la Commissione Europea è molto più pessimista rispetto a noi. Allora, bella, resti con noi, perché dopo il GR24 vorrei chiedere, però ieri abbiamo visto un dato di nuovo record sull'aumento dei depositi bancari degli italiani. Chiaramente non si riesce a spendere, si ha paura anche del futuro, e chi potrebbe spendere non spende. Perché glielo dico? Perché vorrei capire se voi vi attendete un po' di rimbalzo. Non so cosa capiterà sotto Natale, apriranno, lasceranno circolare solo nelle città, cene solo con i parenti stretti, ma soprattutto se non vi attendete che questi dati che ci arrivano sui depositi bancari possano, una volta diciamo terminata l'emergenza, portare a un forte rimbalzo anche nel vostro settore, che non è solo il turismo chiaramente viaggia anche di regolamenti e decisioni internazionali dei singoli paesi, quarantene o no. Parlavo almeno dei consumi interni. Dopo il GR24 la risposta, 349-238-6666 per sms e whatsapp. Molti mi chiedono, ma perché la moglie del commissario doveva trasferirsi a Catanzaro? Boh, anch'io non l'ho capita sta cosa, la moglie, mia moglie è contraria, mio figlio non vuole. Dai, GR24. tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAPP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAPP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Focus Economia. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dunque al responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio, Mariano Bella. Le dicevamo prima del GR24, il dato è chiaro, meno 8% nei consumi a ottobre, meno 73% i servizi ricreativi, meno 60% gli alberghi, meno 38% bar e ristoranti. E se ho ben capito, Bella, vi attendete un dato anche più pesante su novembre, quando il lockdown hanno stretto ancora di più, diciamo. Allora, la domanda è, possiamo attenderci qualcosa, visto che ci sono centinaia di migliaia di italiani in difficoltà, ma c'è stato anche un aumento di 170 miliardi nei depositi dei conti correnti, e in parte perché la gente ha paura, è incerta e non spende, in parte anche perché è difficile spendere nelle zone rosse in primis. Vi attendete che, se gli indicatori, oggi se ne discute molto, dell'Istituto Superiore della Sanità dovessero permettere una riapertura, un po' di rimbalzo, di recupero a dicembre? Sì, certamente sì. I 1.700 miliardi di risparmio su conti correnti, depositi a vista, sono in parte risparmio operazionale, ma in parte, come ci dice un bel lavoro di due studiosi della BCE, è risparmio forzoso, cioè risorse che non sono state spese per mancanza oggettiva di opportunità di consumo. Quindi il mese di dicembre, se dovesse essere, diciamo, un allentamento delle restrizioni, potrebbe se far segnare un bel rimbalzo in termini di consumo, sebbene, è opportuno dirlo, non è che se io ho rinunciato al viaggio a Pasqua mi rifaccio la libreria o mi compro un televisore a Natale. Quindi, come dire, la struttura dei consumi rimane quella che è nella testa dei consumatori, ma certamente se ci si dà l'opportunità di consumare, una parte di quel risparmio forzoso potrebbe andare in spesa e quindi potrebbe spingere il PIL. Questo certamente accadrà per il commercio elettronico, per le piattaforme. Noi ci aspettiamo una forte crescita del commercio elettronico già a novembre e poi in prosecuzione a dicembre, proprio perché offre le opportunità che in questo momento purtroppo i negozi fisici non possono offrire. Senta Bella, un'ultima domanda, sulla base dello stesso ragionamento, vi attendete un forte rimbalzo quando, diciamo, gennaio, febbraio, marzo, la distribuzione dei vaccini, se tutto dovesse andare come ci stanno dicendo, inizierà a avere un volume anche consistente, e si inizierà a vedere soprattutto la fine di questo tunnel? Non è solo dire quando mi vaccino io, ma quando inizio a capire che le prospettive si stanno rasserenando, quindi posso già fare pianificare degli investimenti, degli acquisti per il futuro? Nelle nostre previsioni c'è già un rimbalzo nel primo trimestre del 2021, che ha in parte un rimbalzo statistico. Il vero problema, secondo me, dopo il rasserenamento di cui parlava lei, se l'economia italiana ricomincerà a crescere, cioè allo 0,niente% come nel 2019, oppure se anche grazie a questi benedetti piani di investimento che ancora non abbiamo visto e alle risorse europee si potrà imprimere all'economia un ritmo di sviluppo più coerente con le legittime aspettative di cittadini e imprese. Allora, grazie anche a Mariano Bella, responsabile dell'ufficio studi di Confcommercio. Vedo moltissimi messaggi ancora sul Gaudio e la moglie, ma guardate che è una scusa, insomma, anche a me mi sembra, cioè, uno che dice come se un comandante dei carabinieri dice: se mia moglie non si vuole trasferire, ma noi abbiamo chiesto un commissario, non una coppia, capito? Ma ne bastava uno. Però molti chiedono l'invasione delle cavallette. Diamo l'invasione delle cavallette e poi passiamo invece alle regole europee sulle sofferenze bancarie. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa. C'è stato un terremoto, una tremenda inondazione. Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio! E così oggi anche John Belushi è tornato. Laura Serafini del Sole 24 Ore, buonasera Laura. Buonasera a voi. Dunque, prima che scoppiasse la pandemia e la crisi Covid, in Europa si era deciso, anche in maniera probabilmente corretta, di mettere in campo delle regole a partire dal 1 gennaio del 2021 per evitare che le banche, lo dico male ma per farmi capire, accumulassero troppe sofferenze, troppi crediti inesigibili che diventavano sofferenze dopo essere stati incagli. E questo prevede il cosiddetto calendar provisioning, cioè impone in automatico alle banche l'azzeramento in 3 anni dei crediti a rischio non garantite, in 7-9 anni quelle con garanzie reali. E tra l'altro la revisione delle norme sugli NPL: dal 1 gennaio le rate non pagate per 3 mesi, anche per sconfinamenti minimali, comportano la classificazione a credito problematico. La domanda è molto semplice, visto che è cambiato il mondo nel frattempo. Si sta ragionando in Europa per evitare una roba assurda che sarebbe prociclica, nel senso che aumenterebbe la crisi già in atto, visto gli sforzi fatti anche dal mondo bancario nel garantire prestiti, nel dare prestiti garantiti o nell'aumentare i prestiti, perché tutto sono scatta il 1 gennaio. Laura? Sì, sicuramente si sta cominciando a ragionare su questo tema anche in virtù dell'azione che sta facendo la rappresentanza italiana a Bruxelles, perché sicuramente le italiane, avendo sofferto più delle altre per il tema degli NPL, sono anche quelle un po' più proattive, ma lasciami dire anche più attente ai rischi non così evidenti dei combinati disposti delle norme, perché le due norme che hai citato te, cioè calendar provisioning e quelle che sono le nuove definizioni di default, cioè il famoso 3 mesi e poi minimo sconfinamento e diventi un NPL, di fatto implicano che tu con questa prima norma, cioè sconfinamento accelerato, chiamiamolo così, il tuo credito si come dire deteriorato prima, e quindi poi ai sensi del calendar provisioning lo devi valutare rapidamente, quindi insieme si potenziano. Allora è partita un'iniziativa per cercare di arrivare a provare una norma, in gergo si chiama quick fix, cioè sì, una soluzione rapida. Una soluzione rapida che serve in qualche modo andare a fare un correttivo, sospendere queste definizione di default, quindi questi famosi confinamento accelerato, e poi in qualche modo ammortizzare il calendar provisioning. La realtà è che questo richiederebbe comunque tempo, insomma arriveremo a giugno tra una cosa e l'altra, ammesso e non concesso che poi ci fosse un'unità di intenti a livello europeo. Non ce lo dimentichiamo, ci sono i paesi nordici e adesso che ne parliamo, infatti remano contro anche su questo, hanno già messo sul piatto la richiesta di una riforma strutturale, cioè quella della giustizia civile in Italia, che in realtà andrebbe fatta. Però io vi segnalerei la novità di oggi, sì, perché il commissario Gentiloni ha accennato a una comunicazione alla quale sta lavorando la Commissione europea da presentare entro la fine dell'anno, che si concentra su due aspetti: quadri normativi in materia di insolvenza e recupero crediti e sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati. Allora, che cosa stiano realmente pensando non è chiarissimo, sembrerebbe un atto di indirizzo in linea per esempio con una posizione che ha assunto il Consiglio Economico e Sociale Europeo nei giorni scorsi, che è un organo consultivo che però ha già detto queste norme sugli NPL così in questa fase sono devastanti, no? E ha anche chiesto di intervenire sul mercato secondario dei crediti deteriorati. Quello che possiamo immaginare è che questo della Commissione possa essere un atto di indirizzo per avere un effetto rapido, anche se non definitivo, magari mi verrebbe da dire lenitivo, in vista poi di qualcosa di più significativo in un secondo momento. Però è il segnale che almeno diciamo in Europa, esatto, sta ragionando. Ed è un segnale, tu hai detto 2 volte, di indirizzo politico, che però non è da sottovalutare, perché insomma è comunque un indirizzo politico forte. Speriamo che questo blocchi un'azione da tafazzi di masochismo totale, non solo per l'Italia, non è solo l'Italia dove il mondo bancario ha prestato soldi o garantiti di diverso tipo alle imprese e ai cittadini. Questo tema ci porta, nel ringraziare Laura Serafini direttamente dopo il traffico, all'altro grosso tema, e cioè l'opposizione ieri di Polonia e Ungheria, che ha messo in stallo, diciamo, hanno messo il veto sul bilancio europeo, in qualche modo creato uno stallo sul Recovery Fund, ma anche le voci, che vorremmo confermare con la mitica dopo il traffico, di un po' di irritazione da parte di Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, sul ritardo con cui l'Italia sta arrivando al Recovery Plan, nel giorno in cui però la von der Leyen ha ricordato che ci sono altri 6 miliardi per il fondo Sure per quello che riguarda l'Italia, dopo il traffico. Focus Economia. Dunque, l'Europa, la Polonia e l'Ungheria che mettono il veto sul bilancio europeo e il rischio, diciamo, ieri non si è raggiunta l'unanimità necessaria per dare via libera agli accordi sul bilancio da 1.100 miliardi, è il bilancio in questo caso, ma questo rischia di bloccare anche tutta la trattativa sul Recovery Fund, a cui si unisce, sì, un Ursula von der Leyen che oggi ha annunciato altri 6 miliardi per il piano Sure sulla cassa integrazione, diciamo, per farci capire, all'Italia, 6 miliardi e mezzo, noi siamo il paese che ne avrà di più, 27 miliardi e mezzo in tutto, e quindi insomma manca una von der Leyen che ci dicono essere irritata con l'Italia, un po' nervosa per il ritardo o comunque la mancanza di informazioni sul recovery plan italiano. Chi meglio della mitica Adriana Ceretelli ci può confermare se sono gossip di portineria oppure c'è qualcosa di reale? Adriana, in collegamento da Bruxelles, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, quanto è forte il rischio che Polonia e Ungheria blocchino tutto, ma soprattutto quanto c'è di vero o sono male lingue su un po' di nervosismo nei confronti del recovery plan italiano? Ma dunque, sul veto di Polonia e Ungheria direi che non ci sono dubbi. Ora bisognerà vedere come si esce da questo ennesimo vicolo cieco in cui ci siamo cacciati. Io credo che si uscirà, bisognerà probabilmente trovare il tempo per trovare una soluzione, ma spero che la presidenza tedesca voglia chiudere questa vicenda entro la fine dell'anno, cioè entro la fine della propria presidenza. Mm-hmm. Come naturalmente non è semplice da immaginare, perché per Polonia e Ungheria certo ci sono in ballo un sacco di soldi che non hanno nessun interesse a perdere, ma al tempo stesso c'è di mezzo anche, come dire, la sovranità nazionale, il fatto di una condizionalità che in questi termini è nuova, cioè l'idea è, come credo si sappia, che il rispetto dello Stato di diritto è la condizione preliminare per poter beneficiare dei soldi europei. Quindi questo secondo ma loro... Ma Polonia e Ungheria hanno paura che non gli venga riconosciuto lo Stato di diritto? Oddio, insomma. No, hanno paura che ci sia un giudizio, diciamo, di tipo discrezionale sul loro più o meno... stabile, veritiero stato di diritto. Hanno un po' di coda di paglia, Adriana, no? Ma probabilmente sì. Cioè, però Orban è un gran democratico, è noto, sì. Prego. No, Orban è un autocrate, sì, un gran democratico, però come sempre è su quel filo di lana per cui c'è quell'ambiguità, per cui uno può sostenere che in realtà cioè, è lo stesso sui polacchi, che hanno un sistema involutivo e che però sono gelosissimi della propria sovranità, e poi loro ti dicono: io sono stato eletto per le elezioni e quindi comunque questa è una materia molto franosa e friabile, perché quando si tratta poi di punire questi stati che diciamo non stanno all'interno dei binari di uno stato di diritto, diciamo, classico, tra virgolette. Poi è difficile trovare le maggioranze perché si ha sempre paura che poi venga il proprio turno in un modo o nell'altro. Quindi in genere, io mi ricordo sempre ai tempi dell'Austria, quando elesse per la prima volta Haider, di destra, e che allora c'era questo famoso articolo 7 che addirittura poteva prevedere sanzioni pesantissime, eccetera. Quando poi si arrivò al punto di comminarle, molti si ritirarono non perché non volessero condannarlo, ma semplicemente perché temevano che in futuro magari sarebbe potuto toccare a loro. Quindi insomma è una questione. Sì, no, ma capisco, ci mancherebbe. Cioè, ecco, guarda, c'è adesso un'agenzia che arriva da Berlino, il ministro tedesco degli affari europei e Michael Roth ha detto lavoreremo senza turno per arrivare a una buona soluzione 24 ore al giorno. Mi dici invece se è vero oppure... Certamente diciamo che l'Italia, che era il paese che più degli altri si aspettava il varco, proprio perché è noto che l'Italia ha i suoi precedenti di incapacità di utilizzare i fondi europei eccetera eccetera, finora circa una media di un terzo di quello che ci spezzava eccetera eccetera, oggi si sperava, no, visto che è il primo beneficiario, un sacco di soldi eccetera, che ci fosse un piano invece, o perlomeno un piano abbastanza a buon punto. Noi invece abbiamo finora presentato solo le linee guida di un futuro piano. In più, se a questo si aggiunge il fatto che continuiamo a dire no al MES, che ci darebbe i soldi subito, e visto che continuiamo a aumentare l'indebitamento, i deficit, eccetera, perché di questi soldi ne abbiamo bisogno, perché la crisi pesa. Ecco, allora l'Europa si chiede, ma insomma questa Italia cosa vuole, cosa fa? Si vuole impegnare seriamente per utilizzare tutti i soldi che abbiamo messo a sua disposizione? Ripeto, siamo il primo beneficiario. O che cosa intende fare? Cioè, in un certo qual modo noi siamo chiamati a smentire la nostra reputazione pregressa e a cercare di non solo mettere insieme un buon piano, ma ricostruirci una credibilità che ancora insomma è un po' fragile, direi. Allora, io vedo che qualche ascoltatore mi dice: ma perché non fate intervenire? Il governo non usa Salvini, visto che è molto amico di Orban, per convincere Orban, non lo so, da quello che ho visto anche Salvini è favorevole al recovery fund, sì, potrebbe essere una moral suasion, non lo so, adesso non sono nella testa di Salvini, è vero che c'è un asse molto forte con Orban. Invece per quello che riguarda il piano italiano, io non ho perso le speranze, Adriana, però dico semplicemente, vorrei capire se questo ritardo e questo silenzio è dovuto al fatto che stanno limando il miglior piano possibile o che sono ancora in alto mare, non so se mi sto spiegando. Sì, ti sei spiegato benissimo. Io credo che ci sia certamente l'idea che vorremmo mandare il piano più bello e più perfetto del mondo, ma al tempo stesso c'è anche ancora tanta confusione su quello che c'è da fare. Poi non ci dimentichiamo che questa volta presentare un piano che sia coerente con i criteri europei, le condizionalità europee, non è una cosa facile, perché diciamo tutti i progetti si dovranno incastrare in quel famoso 20% del totale che deve andare alla digitalizzazione, 37% che deve andare all'economia verde, poi una quota per il sociale. Sì, e poi come... E tutto questo incastrato nelle priorità europee, dunque anche in coordinamento con gli altri stati membri per dare il massimo di valore aggiunto a questo tipo di missione. Quindi non è facile obiettivamente. A questo però si deve aggiungere il fatto che purtroppo noi abbiamo un sistema paese che è male organizzato, una burocrazia ridondante ma inefficiente, il solito, no? La semplificazione che si annuncia sempre che poi nei fatti non si vede, e quindi tutta la incapacità di progettare. Sì, no, ma è chiaro. Tra l'altro, Adriana, ne ringraziati, ricordo anche agli ascoltatori che poi questo piano non è solo che lo presenti, ottieni i soldi, grazie, arrivederci, viene rivisto, controllato, i soldi li puoi perdere, sono condizionati dall'avanzamento dei lavori. Però speriamo che questo silenzio e questo ritardo siano dovuti appunto al fatto che si sta limando negli ultimi dettagli un piano molto importante. Io me lo auguro come italiano. Grazie Adriana Ceretelli, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.